Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:09, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Secondo un'indagine della Demos di questo weekend, campione 1300 persone intervistate, il 46% degli italiani tornerebbe anche al nucleare. Un sondaggio che cade a 21 anni esatti dal referendum che portò alla chiusura delle centrali italiane, sostanzialmente. Un italiano su due dunque lo vuole, un italiano su due rimane scettico. Gli scettici sono soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. Sapete che il governo Berlusconi sul fronte del nucleare ha deciso di andare avanti. Il ministro Scajola ha confermato anche la scorsa settimana che entro il 2018 ci saranno le centrali per coprire il 25% del fabbisogno energetico italiano, da 8 a 10 centrali. E proprio la scorsa settimana, tra l'altro, è stato approvato il disegno di legge alla Camera, ora passa al Senato, il disegno sullo sviluppo che ridisegna il sistema energetico in Italia. Insomma, che ne pensate del possibile ritorno al nucleare? Ne abbiamo già parlato in passato e continueremo a parlare perché il tema è molto molto sentito. Tra l'altro avviene questa discussione in un momento particolare dal punto di vista mondiale, lo sapete, al di là dell'oceano è stato eletto Barack Obama negli Stati Uniti, presidente, e Barack Obama ha un'agenda dal punto di vista energetico sicuramente sulla carta rivoluzionaria da questo punto di vista. Sapete che negli Stati Uniti c'è il nucleare, ma Obama vuole per esempio cancellare il veto che aveva posto Bush alla legge che limita l'emissione di CO2 gas serra dalle automobili, vuole riportare, di così dice, gli Stati Uniti dentro i parametri di Kyoto, questi o da negoziare si vedrà. Ha promesso 5 milioni di occupati nel settore delle energie rinnovabili, dove vuole investire 15 miliardi di dollari l'anno. Insomma, visionario o utopista in questo Barack Obama? E in Italia invece si discute appunto del nucleare. Le cose ovviamente sono strettamente connesse e ne vogliamo parlare oggi con il senatore Guido Possa del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno a lei, dottor Milan, e a tutti gli radioascoltatori. Tra l'altro voglio ricordare il responsabile energia di Forza Italia. Voglio salutare anche Grazia Francescato dei Verdi, portavoce nazionale, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ben ritrovata. E saluto anche il sindaco di Trino, Trino Vercellese, Giovanni Ravasenga. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Uno dei quattro luoghi dove ci sono ancora le centrali, le vecchie centrali, insomma, che sono state chiuse. Allora, ritorno al nucleare sì, sguardo sicuramente a quello che fa anche Obama e dice di voler fare Obama sul fronte energetico negli Stati Uniti, sì o no dunque il nucleare? Alle 9:13, 800 24 00 24 per intervenire, gli sms al 349 238 6666. Io partirei proprio dal sindaco di Trino, sindaco, perché lì Giovanni Ravasenga, voglio ricordare, tra l'altro eletto in una lista civica di centrodestra, giusto? Sì, corretto. Lì la situazione, quando si parla di nucleare si parla anche ovviamente di scorie, e poi ne parleremo durante tutta la trasmissione, perché sapete che quel sito unico a Scanzano Ionico non fu mai fatto. In questo momento le scorie nucleari sono tra l'altro anche nei vari siti, nelle vecchie centrali, è così? È vero, perché devo dire che il 70% delle scorie, diciamo, o dei materiali radioattivi sono praticamente in Piemonte, a distanza di 25 chilometri un sito dall'altro, quindi sono a Trino e a Saluggia, ed entrambi sono due siti, proprio Trino sul fiume Po e Saluggia sulla Dora Baltea. Quindi sono due siti proprio costruiti, non vorrei dire quasi in mezzo al fiume, ma più o meno siamo in quella condizione. Quindi un luogo, innanzitutto, che va liberato il più in fretta possibile. E questo crea, come lei immagina, dei problemi. Lei dice liberato, però lei sa che in Italia quando si è voluto fare un sito unico, ricorda cosa è successo, insomma. Posso darle la mia opinione? Sì, certo. Allora, ben guarda, chiamata per quello. Sicuramente il problema lo si potrà risolvere nel momento in cui, come diceva appunto prima bene lei, ci sarà un luogo, un deposito nazionale, no, nel quale appunto depositare tutti questi materiali. Fino a quella data, io non so francamente quando, ma sono piuttosto pessimista su questo argomento, no? Fino a quella data ovviamente i siti nucleari oggi in Italia non potranno che essere deposito di se stessi, quindi certamente le centrali verranno smantellate, e tra le quali quella di Trino, la Enrico Fermi, sarà praticamente la prima, proprio con una sorta di progetto di decommissioning accelerato. Si prevede che entro il 2013 questo impianto sia completamente smontato. Certamente smontato, ma comunque buona parte dei materiali resteranno lì, custoditi certamente in maggiore sicurezza, quindi diminuirà, se vogliamo essere più chiari, la pericolosità dell'impianto, ma comunque i materiali resteranno qui, ad eccezione del combustibile. A Trino ci sono ancora 43 elementi di combustibile irraggiato che ci auguriamo entro il 2010, così come previsto, verrà trasferito in Francia per il riprocessamento. Lei, sindaco, visto che si parla di possibile ritorno al nucleare, che ne pensa di un possibile ritorno, di una possibile riapertura della centrale a Trino? La centrale Enrico Fermi no, perché 50 anni fa questo impianto fu costruito in mezzo a un fiume, nel luogo, come posso dire, più inadatto. Quindi io personalmente sono favorevole al nucleare per un semplice motivo, perché è giusto che si individuino e che si massimizzi l'uso delle energie prodotte dalle fonti alternative. Su questo non c'è ombra di dubbio, dobbiamo fare una politica molto spinta da questo punto di vista. Ma siccome, dico io, nei prossimi 15 anni, per essere fortemente ottimisti, potremmo pensare di produrre il 20% al massimo, ma devo dire con uno slancio di ottimismo, almeno questa è la mia opinione, notevole, il rimanente 80% lo dobbiamo produrre con qualcos'altro. Non c'è una fonte esclusiva, il mix deve essere così. Il nucleare, io lo vorrei dire anche più o meno come si fa al ristorante normalmente, ci vuole anche il nucleare quanto basta, no? Per far sì che insieme alle altre fonti, insieme alle altre, agli altri mezzi per poter produrre energia, il nucleare può essere una certamente delle fonti, e per la quale io non sono ovviamente sfavorevole. Non è una pregiudiziale, lei dice sostanzialmente quella centrale no, perché è stata fatta in una situazione diversa 50 anni fa, in sicurezza che oggi non garantirebbe insomma tutti gli standard, però non è un no pregiudiziale suo. Senatore Possa, il 47%, insomma un italiano su due è scettico, o se la si vuol vedere un italiano su due favorevole, le piace come idea di base, visto che lei rappresenta insomma, in questo momento il governo, un'idea di base da cui partire per rilanciare il nucleare? Guardi, non è che rappresento il governo, rappresento fa parte organica del governo, però voglio dire, sono molto lieto di questo dato, perché c'è stata una intossicazione antinucleare senza praticamente contraddittorio durata 20 anni dopo l'infausto incidente di Chernobyl del 26 aprile del 1986 e poi il conseguente referendum cosiddetto antinucleare, che poi non è stato effettivamente antinucleare nel senso proprio del termine, ma si riferiva a tre particolari disposizioni che non comunque avrebbero cancellato il nucleare. L'interpretazione che ne è stata data è stata di cancellare dall'Italia il nucleare, ma è stata un'interpretazione che le forze politiche di allora hanno voluto dare estensivamente a quel referendum. Comunque sono molto lieto di questo, perché ripeto, in Italia c'è stata una profonda disinformazione. Se uno pensa che in Europa oggi, ivi compresa l'Italia, il 33% dell'energia elettrica viene prodotta per via nucleare, ci si può rendere conto, l'Europa molto abitata, con paesi di altissima civiltà, eccetera, non ha rinunciato affatto all'utilizzazione di questa fonte energetica, solo noi ce ne siamo privati con danni enormi che poi non si vedono, così non si vedono tangibilmente, però pesano effettivamente. Se la sola considerazione della bolletta energetica, noi importiamo l'85% della nostra energia dall'estero, la nostra bolletta energetica ci costa 60 miliardi di euro, 60 miliardi di euro vuol dire 1.000 euro per anno a persona, sì. Ecco, solo questo. Però che cos'è Obama? Un visionario, un utopista, uno che dice l'energia rinnovabile è quella, visto che lì il nucleare già ce l'hanno, però voglio dire non lo vuole implementare per esempio Obama, certo non chiudere le centrali ma nessuna implementazione, è irrinnovabile, anzi lì bisogna investire, questa è la sfida del futuro, lì bisogna creare i posti di lavoro, che cos'è? Un utopista, un visionario? Guardi, non ho idea di quale sia la politica del presidente eletto Obama, scusi, spengo il telefono. Sì, grazie. Quindi non so in precisione di che si tratti. È chiaro che di fronte a un fabbisogno di una commodity assolutamente vitale per la nostra società come l'energia elettrica, bisogna fare in modo di avvalersi di tutte le disponibilità. È certo una grande disponibilità è il risparmio energetico e lì in America c'è tantissimo da fare, è certo una disponibilità viene fornita dalle energie rinnovabili, dalle fonti rinnovabili energetiche, l'eolico e se non troppo sussidiato il solare, perché il solare fotovoltaico può andare avanti solo se sussidiato, ma non possiamo sussidiarlo troppo come invece sta succedendo in Italia. E certo tutto questo è più che ragionevole, più che comprensibile e questo produce posti di lavoro e mi fa molto piacere. Io intanto voglio salutare, prima di andare grazie a Francescato, anche Ermete Realacci, Partito Democratico, ci ha raggiunto. Buongiorno Realacci, benvenuto. Buongiorno. Allora, col senatore Guido Possa che ha appena parlato, questo lo dico anche per Realacci visto che ci raggiunge in corsa, grazie a Francescato, vorrei partire da lei, visto che insomma si sa i verdi vengono sempre accusati di essere i verdi del no e quelli l'ambientalismo del non fare, mentre qualcuno dice, qui sarà interessante capirlo, il Partito Democratico è rappresentato anche un ambientalismo del fare, abbiamo Ermete Realacci che tra l'altro è stato tanti anni alla Lega Ambiente. Noi siamo sempre accusati di tutto, soprattutto di essere quelli del no, fa molto comodo metterci queste etichette, in realtà noi siamo quelli dell'invece, diciamo no al nucleare ma diciamo di sì, proprio come Barack Obama, che non è un visionario ma è estremamente lungimirante, all'efficienza energetica, alle rinnovabili, a tanta ricerca. Spieghiamo le ragioni del no. Sono prima di tutto ambientali, i problemi delle scorie sono assolutamente irrisolti, non soltanto in Italia, come sappiamo, ma a livello mondiale. Anche il grande deposito di Yucca Mountains, che avrebbe dovuto essere avviato negli Stati Uniti, in realtà non decolla. Per quanto riguarda la Francia, l'Agenzia Nazionale Francese per la Gestione dei Rifiuti Nucleari, l'ANDRA, sta avviando ora un laboratorio sotterraneo in una piccola località della Meuse-Abure. Quindi si è lontani dalla possibilità di indicare una tecnologia approvata standard in base alla quale si possono poi eliminare le scorie. C'è sempre un problema di incidenti, vi ricordo in Europa quest'anno ci sono avuti almeno 8, c'è un problema di costi e disponibilità dell'uranio, perché una delle motivazioni di questo governo è finalmente ci togliamo dalla dipendenza energetica del petrolio e dei combustibili fossili. Ricordo che l'uranio, che durerà al massimo 30-70 anni e i cui costi sono aumentati 9 volte, poi sui costi magari tornerò in un prossimo intervento, l'uranio si trova in Australia, in Canada, in Kazakistan, in Russia, in Namibia, quindi non c'è nessuna indipendenza energetica. Quanto all'industria del nucleare, non è affatto vero che è in espansione, perché alla fine del 2007 c'erano 439 reattori, 5 in meno di un lustro fa, ci sono 20 reattori in costruzione in meno. Certo nei 27 stati membri dell'Unione Europea sono attivi 146 reattori, praticamente voi sapete che la Francia ha fatto questa scelta in testa alla Heat Parade, ma l'unico reattore in costruzione veramente è l'Olkiluoto in Finlandia, sta procedendo molto a rilento, sta accumulando... Forse però perché è stato sbagliato chiuderli, Francesca. No, non è stato sbagliato chiuderli, perché il nucleare... Cioè non ne costruiscono perché li hanno, voglio dire, no, mentre noi siamo rimasti appiedati. Ecco. No, non siamo rimasti appiedati. Noi, grazie al cielo, adesso potremmo investire sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, su questo vorrei poi fare un intervento molto dettagliato, seguendo la strada che ci indica l'Europa. E poi vorrei anche far notare un'altra cosa che nessuno quasi mai fa notare, che è il consumo di acqua. Voi sapete bene che per raffreddare i reattori ci vogliono, pensate, 150 milioni di litri d'acqua all'ora, che vengono poi scaricati a 10 gradi in più. In un paese come il nostro, già colpito dal cambiamento climatico, in cui ci sono periodi di siccità che riducono i fiumi praticamente a zero, alternati a periodi di alluvioni tremende, voi capite bene che anche il consumo dell'acqua è un elemento. E questo è un elemento. Poi arriveremo ai costi. Sì, dopo. Arriveremo quanto ai costi. Ma sicuramente, su questo c'è anche quanto costa finanziare, per esempio, il fotovoltaico. ecco, sa che sui costi io devo andare da Realacci. Prima però, senatore Possa, visto che lei anche so che ha insegnato al Politecnico, insomma, sui reattori nucleari, insomma, è un po' il suo tema anche, il suo campo. Mi dice solo sì o no, grazie a Francescato ha dato dei dati che lei contesta, per esempio il 150 milioni di litri d'acqua all'ora per raffreddare. Mi dica solo se ha dato dei dati sbagliati e poi andiamo avanti. Guardi, l'autoressa Francescato ha tirato fuori un sacco di dati, però come sempre i dati vanno presi nella loro totalità. La verità è una totalità, non si possono solo vedere. Per esempio la cosiddetta centrale di nucleare di Montalto di Castro, che poi non c'è stata, non avrebbe utilizzato acqua di fiume ma acqua di mare, e quindi l'impatto ambientale di un modestissimo riscaldamento del prelievo di acqua di mare che sarebbe stato fatto non avrebbe avuto quell'impatto. No, mi sembra che siano questi elementi certamente da tenere presenti in un contesto, però non è per questo che non si fa il nucleare, per l'uso dell'acqua di raffreddamento dei condensatori. Ermete Realacci, il Partito Democratico si è impegnato molto la scorsa settimana in questo disegno di legge approvato alla Camera, ora andrà al Senato appunto, che ridisegna un po' il disegno di legge sullo sviluppo. Per esempio voi vi siete battuti molto per avere l'agenzia del nucleare, che inizialmente credo non fosse prevista. Perché? Beh, noi abbiamo chiesto e ottenuto, anche se senza fondi e quindi molto più deboli di quanto pensavamo, che ci fosse un'agenzia per la sicurezza nucleare, perché è chiaro che il nostro paese deve fare i conti con questo problema e che questa agenzia fosse anche un'agenzia il più indipendente possibile. Abbiamo ottenuto che la nomina dei vertici sia della Presidenza della Repubblica, questo riteniamo che vada fatto in ogni caso, come pure riteniamo che vada in ogni caso, fra le tante opzioni che il nostro paese ha davanti per il futuro, ripresa, potenziata la ricerca sul nuovo nucleare, il nucleare di quarta generazione, che consente di ridurre o eliminare i rischi sia dal punto di vista della gestione degli impianti che dal punto di vista della produzione delle scorie. E noi siamo perché questa ricerca sia molto rafforzata e perché l'Italia in questo giochi un ruolo. Invece non condividiamo ovviamente assolutamente l'enfasi che il governo ha posto sulla questione del partire subito con il nucleare, a parte il fatto che le misure previste nel provvedimento che è passato alla Camera sono non degne di un paese occidentale, nel senso che si prevede di militarizzare sostanzialmente i siti e di decidere alla fine, se non c'è il consenso delle regioni e dei comuni, soltanto dal centro. Questo sono meccanismi impensabili in un altro paese dell'Occidente e credo che produrranno un vicolo cieco da questo punto di vista, ma soprattutto noi riteniamo che le priorità del paese siano veramente altre. Vede, sentivo prima il senatore Possa, che è persona competente in materia, fare riferimento alla vicenda americana. Ecco, vorrei partire da quello. In America non si ordina un nuovo reattore nucleare dalla fine degli anni 70, da molto prima di Chernobyl. E adesso con Obama pare che, insomma, si proseguirà su questa linea, insomma, se è vero che vuole sviluppare. Proponeva di dare delle sovvenzioni, perché questo è bene dirlo, contrariamente a quello che si dice che il nucleare sia una fonte di energia meno cara, questo non è affatto vero. Il motivo che ha fermato il nucleare in Occidente, attualmente in Occidente sono in costruzione due soli reattori, quello che ricordava grazie a Francescato, in Finlandia, che ha dei forti ritardi e dei forti aumenti dei costi, e un reattore in Francia, stop. Si è fermato il nucleare perché sostanzialmente i costi per le agenzie, per le società private che producono energia elettrica, e l'energia elettrica negli Stati Uniti è prodotta tutta da società private, non ha l'equivalente dell'Electricité de France o anche della nostra stessa Enel, quella energia costa troppo, perché se uno deve tener conto di tutti i costi, dalla costruzione alla gestione allo smantellamento allo stoccaggio delle scorie, è un'energia molto... Però Realacci, poi ripartiamo dopo la pubblicità, ma ripeto, non è che in Francia ne fanno solo uno, ma ne hanno già 35-40, voglio dire, in questo noi forse per chi è a favore del nucleare va recuperato un gap, è chiaro che se ne costruiscono meno in Europa, ce li hanno già. perché voglio ricordare che la Germania tuttora ha un accordo di governo in cui prevede di chiudere tutte le centrali nucleari nel 2020. La Spagna ha un governo che vuole chiudere tutte le centrali nucleari nel 2014. Se vuole il mio parere, non lo faranno, ma non lo faranno per un motivo molto semplice, perché esattamente per le cose che dicevo prima, siccome il nucleare costa tanto costruirlo, relativamente poco gestirlo e tantissimo smantellarlo, chi ha le centrali, almeno che non ci siano i rischi immediati dal punto di vista della sicurezza, tende a tenerli in vita, diciamo. Ma quei due paesi, per esempio Germania e Spagna, hanno chiuso la strada al futuro, al nucleare futuro, e in Inghilterra si parla soltanto di sostituire le centrali vecchie che si chiudono. Allora, Riccardo da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, Michele. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Io sono un piccolo imprenditore che a suo tempo votò, all'età mia ero giovane, convintamente per il referendum per, diciamo, antinucleare, come è stato definito. Adesso mi mangio le mani perché pago l'energia di più di quanto la pagano i miei competitori in Francia, la pago di più di quanto la pagano i miei competitori in Stati Uniti, e considero ideologica ancora la discussione su questi motivi sui quali vorrei anche un parere dei vostri ospiti. Va bene. Primo, Barack Obama sta, diciamo, adottato una politica, ha dichiarato che adotterà una politica di sostegno alle fonti alternative, va benissimo, ma non vuole chiudere le centrali nucleari, e soprattutto non dimentichiamoci, negli Stati Uniti producono petrolio, noi no, quindi l'avete già detto, il nucleare non è una soluzione, è però una delle fonti possibili. Nel nostro paese è l'unica, l'energia idroelettrica, ahimè, non è sufficiente. Io conosco bene la realtà di Civitavecchia, il polo energetico di Civitavecchia produce malattie purtroppo per i cittadini, nonostante non sia un polo nucleare. Anzi, se fosse nucleare, salvo gli errori e gli eventuali disastri, non ne produrrebbe nell'immediato. La ringrazio, Riccardo, per il suo intervento. Andiamo a Milano da Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ma mi sembra come al solito che la questione nucleare diventi un elemento fuorviante soprattutto per colpa dell'incompetenza degli interlocutori. Io non so il professor Possa dove abbia insegnato, al Politecnico di Milano. No, lo so bene, mi sono laureato lì, sono un ingegnere nucleare e dico sempre che sono un ingegnere nucleare che ha studiato il nemico, perché proprio perché ci sono stato dentro e ci ho lavorato, sono andato a sviluppare parte del Super Phoenix in Francia, posso dire tranquillamente che tutto ciò che viene detto sono delle merite folle. Il problema in realtà è di altra natura. Cioè lei è un ingegnere nucleare, ma è, non so se dire, contro al nucleare. Sì, beh, perché il interessante problema, per esempio, la sua posizione. Sì, il problema, per esempio, le dico in due parole perché deve essere ovviamente veloce. Il Super Phoenix, che era un reattore veloce nato per sviluppare la filiera del plutonio, cioè vale a dire per bruciare anche quello che sono i residui, diciamo così, fissi, pesanti, della generazione dell'energia, non si è sviluppato, e quindi comunque stiamo pensando a centrali di terza e quarta generazione dove questo problema non viene comunque affrontato. Ciò non di meno, terza generazione sarebbe il chiluoto, ma è il primo reattore di terza generazione non del tutto a tecnologia passiva che sta subendo i danni e i ritardi di cui parlava la Grazia Francescato prima. Allora Marco, sì, mi dica una cosa sui costi, visto che lei si è dichiarato ingegnere nucleare e contrario, è costoso, e nel senso è costoso sì, ma voglio dire è un investimento produttivo oppure no secondo lei il nucleare? Ma il problema è che è un investimento produttivo, ovviamente, come ha ben esposto la Marcegaglia, investimento produttivo per la filiera, per tutti coloro che ci lavorano, vista la quantità di denaro enorme che deve essere messa a disposizione per poter sviluppare una nuova tecnologia. Quindi qui addirittura si parla, e non so il professor Possa se l'ha citato lui prima o se l'ha citato Realace, cioè si parlava addirittura di quarta generazione. Oggi la quarta generazione non c'è ancora, certo. Va bene, grazie Marco. Sì, forse voleva dire un'ultima cosa, però dopo non do spazio anche agli altri ascoltatori e agli ospiti. Senatore Possa vuole rispondere a Marco, insomma, che è scettico, un ingegnere nucleare scettico, dice: ho studiato il nemico e per questo lo conosco e non mi sta bene. Guardi, non ho ben compreso le ragioni di questo scetticismo. Volevo tanto per dire... Beh, dice per esempio i costi sono molto alti e vanno bene solo per la filiera, e poi la quarta generazione ancora non c'è, la terza generazione... La quarta generazione non c'è, e questo sappiamo benissimo, che la quarta generazione è un flatus vocis, non è un'opzione tecnicamente ed economicamente perseguibile oggi. Volevo dire solo una cosa: non sono uno o due gli impianti in Europa nucleari in costruzione, ce ne sono ben 13 e per un totale di 11.700 megawatt oggi, non c'è solamente Occhiluoto e Flamanville in Francia, ce ne sono altri 11, 7 in Russia, eccetera. Quindi è una tecnologia anche da questo punto di vista, anche in Europa, assolutamente non abbandonata, lei non dice. Abbandonata. Per non parlare poi di quelli che sono in costruzione, non sto parlando di quelli in fase di pianificazione, in Asia ce ne sono 20 in Asia, quindi bisogna prima di tutto cominciare a partire dai dati. E i dati sono dati confortanti, nel senso che chi investe in questa direzione evidentemente lo fa avendo valutato i 360 gradi dell'opzione e avendo visto che conviene investire in quella direzione. Senta, ma che ne pensa a questo proposito del disegno di legge che prevede che i siti che verranno costruiti, almeno questa è l'intenzione del governo, saranno siti strategici dal punto di vista nazionale, quindi dal primo giorno verranno militarizzati, dal giorno della posa della prima pietra, per evidentemente anche contrastare le possibili contestazioni delle popolazioni locali? È l'atteggiamento giusto, è la strada giusta? Guardi, non ho il dettaglio della legge, perché poi queste cose qua bisogna evitare assolutamente le semplificazioni. So certo che il problema della scelta del sito è un problema importante. L'Italia è un paese ad alta sismicità per molte zone, quindi bisogna starci attenti. I siti non sono tanti in Italia, come invece sono tanti in Francia. La scelta è una scelta da farsi con cum grano salis, avendo un'agenzia o un'autorità per la sicurezza nucleare che sappia il fatto suo e che quindi preceda questa scelta con la massima. Ma le pare possibile che, laddove non si riesca a costruire una ferrovia in Italia, non so, un tratto di ferrovia, la TAV, o un rigassificatore, o un ponte, o una strada, o perfino una rotonda, si riesca a costruire una centrale nucleare? Abituarci a questo nuovo modo di esprimere la modernità. La modernità non è solamente dire di no, ma è anche avere il coraggio di scelte complesse come quella certamente del nucleare. Grazie a Francescato. Ci parli dei costi, visto che voleva dire perché non le piacciono i costi del nucleare. Sono allora, prima di tutto alcuni no sono sacrosanti, come quello sul nucleare, come quello contro gli organismi geneticamente modificati, ma siccome sono veramente stanca di questa solfa che ai Verdi viene sempre attribuito il no, vorrei parlare delle alternative. Intanto sui costi, lo abbiamo già detto, i costi del nucleare sono altissimi, perché c'è il trattamento delle scorie, lo smantellamento degli impianti, c'è l'aumento incessante del costo dell'uranio, l'ha detto Fulvio Conti, non l'ha sottoscritta, l'ha detto la Commissione Attività Produttive il 5 dicembre, oltre 9 volte dal 1999 al 2007, e ci sono i tempi molto lenti, per cui ovviamente c'è un aumento forte dei costi, come nel caso di Olkiluoto. Noi abbiamo calcolato circa un 6 miliardi di euro per ogni reattore, ma ripeto, sono costi overnight che non tengono conto di tutti gli altri elementi. Al di là dei costi del nucleare, su cui potremo tornare, vorrei parlare delle alternative. Invece di fare questo, cosa si può fare, visto che, come diceva l'ingegner Marco, Generation 4 non sarà pronta prima del 2025, quindi è un flatus vocis. La strada l'ha indicata molto chiaramente l'Europa. Noi dobbiamo entro il 2020 realizzare i famosi 20-20-20, 20% di taglio di gas serra, 20% di risparmio energetico e 20% di fonti rinnovabili. E c'è una persona che si chiama Pistorio, che non è esattamente un verde, che sul risparmio energetico non ha soltanto tanto detto, ha anche fatto, ha anche tagliato la sua bolletta del 30% per rispondere all'imprenditore. Allora, che cosa fa il governo italiano? Mentre Obama appunto viaggia veloce verso il futuro, il governo Berlusconi ha messo l'indietro tutta, perché contesta, come sapete, il pacchetto energia che dovrebbe passare, il pacchetto energia dell'Europa che dovrebbe passare a dicembre. E cosa fa? Lo contesta in base proprio ai costi, dicendo che l'Italia pagherebbe 180 miliardi di euro, quindi l'1,14% del suo PIL, e che i costi totali del piano sarebbero per noi 19,7%, quindi più di Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. In realtà non è così, perché il governo italiano ha scelto lo scenario peggiore tra 7 indicati nel famoso studio modello Primes, e quindi non ha calcolato i meccanismi di flessibilità. È molto complicato, non ci entro. Comunque ci sono una serie di Ma infatti c'è stata anche una discussione molto ampia. Dica, questo renderebbe molto meno cara l'applicazione del pacchetto, e poi non ha tenuto conto dei risparmi su consumo di carburante e la riduzione dell'inquinamento, quindi il costo reale sarebbe la metà, ridotto addirittura la metà, dice. Non è che lo dico io. Voglio dire, è una delle 7 previsioni. Guardi, che lei dice, per nessun paese il costo arriverebbe all'1% del PIL, tranne che per la Lituania, quindi è una grande balla. Allora io la fermo qui. Un ascoltatore, Paolo da Ferrara, buongiorno. buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono uno di quelli che ha partecipato al famoso referendum, no? Sì. Ero favorevole, diciamo così, al nucleare. Capisco anche la posizione di chi fosse contrario, perché in fondo si tratta di un'energia pulita ma potenzialmente estremamente pericolosa, per cui o ci si fida o non ci si fida. Mi va bene, è passato il fronte del non nucleare, dobbiamo muoverci con coerenza, non possiamo comprare corrente prodotta all'estero con il nucleare, per coerenza lo dobbiamo pagare quello che ce la faranno pagare, ma la andremo a comprare da chi la produce senza il nucleare. C'è una sorta di masochismo coerente, lei sì, dice. Certamente, perché se no è una presa in giro, ma come mai noi non vogliamo il nucleare perché lo riteniamo pericoloso, poi andiamo a mettere le centrali in Ucraina e ce lo tiriamo dentro in casa, perché gli ucraini hanno meno diritto di noi di vivere? Interessante, grazie Paolo. Ermete Realacci, le è piaciuta la definizione che io ho dato all'inizio, insomma, al Partito Democratico, almeno sulla base della partita, un'idea dell'ambientalismo del fare, forse anche per staccarsi da un certo ambientalismo che almeno è stato percepito così, del non fare dello scorso governo? L'ambientalismo è sicuramente una grande sfida sul futuro e credo che da questo punto di vista, in questo campo, altri paesi europei come la Germania, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, ma anche dagli Stati Uniti ci verranno delle ipotesi di grande interesse. Ecco, noi vorremmo che l'Italia non fosse, diciamo, il fanalino di coda di questa sfida, ma fosse in avanti. Volevo dire al senatore Possa, che stimo, che io non avevo parlato di Europa, avevo parlato di Occidente, e confermo il mio dato che lui non può smentire: in tutto l'Occidente. Perché lui, per far vedere che in Europa c'è ancora del nucleare in costruzione, deve andare nei paesi dell'est, in Unione Sovietica, nell'ex Unione Sovietica, in Russia. Vabbè, che però sono paesi anche, voglio dire, anche quelli dell'Europa. Assolutamente, ma infatti non a caso avevo parlato di Occidente. Sì, no, certo. Ma per rimarcare l'Occidente, che cosa, voglio dire, che tipo di differenze? Il dato è questo: tutto il dibattito sul nucleare ruota intorno a un tema, poi alla fine della fiera. E cioè, io penso che è una tecnologia che bisogna padroneggiare, perché noi non possiamo escludere futuri in cui anche questo, bisogna fare i conti anche con questo, però non possiamo farlo a partire da delle posizioni che non sono corrette. Parte tutto il ragionamento dal fatto di dire che il nucleare è un'energia meno costosa. Questo semplicemente non è vero. Il nucleare in Occidente non è stato fermato dai referendum che si sono fatti solo in Italia e in Austria. Stop, in Austria prima di Chernobyl fu fermato il nucleare, in Italia dopo. In tutto l'Occidente non ci sono stati referendum. C'è stata una scelta dettata dall'economia. Negli Stati Uniti, ripeto, da molto prima di Chernobyl non si ordinavano nuove centrali e ne hanno costruite tantissime di centrali negli Stati Uniti di altro tipo, perché semplicemente se uno fa i conti bene il nucleare costa di più. Certo, costa di meno se uno una parte dei costi, come accade in stati molto centralizzati, per esempio nella Francia, li scarica sulla collettività, perché se la gestione delle scorie, la sicurezza, alcune altre questioni sono a carico del pubblico, allora il nucleare costa meno. Ma sostenere che bisogna fare il nucleare per abbassare i costi dell'energia, ho sentito prima anche il piccolo imprenditore che parlava di questo, non è vero, l'energia in Italia costa di più perché abbiamo una bolletta con tanti oneri impropri e perché abbiamo una liberalizzazione ancora incompleta, c'è poco da dire. E dal punto di vista invece della scommessa, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, c'è uno spazio per il nostro paese enorme. Noi oggi abbiamo meno pannelli per il solare termico dell'Austria e guardi, io conosco tantissime storie di imprese italiane straordinarie, le racconto solo una perché poi alla fine sembriamo sempre un paese sfortunato, invece abbiamo spesso una vitalità nascosta. C'è una piccola impresa di cattolica che ha scoperto una maniera per far consumare di meno i lampioni per le strade. Questa piccola impresa di cattolica ora opera in molte parti del mondo e in particolare ha vinto una serie di appalti per oltre 100.000 punti luci in Arabia Saudita. In Arabia, sì, è vero, l'ho letto anch'io, credo a Medina, alla Mecca, tutta l'illuminazione è controllata da cattolica. Mecca, diciamo. No, no, è vero, è vero, è vero. Negli Stati Uniti, oggi Gore lo riporta in un articolo di prima pagina su Repubblica, ma il Sole 24 Ore ha fatto un corretto articolo qualche giorno fa. Questo è stato uno dei punti su cui Obama ha segnato la svolta rispetto a Bush, anche sul nucleare rispetto a McKinsey. Ma sì, sicuramente sull'energia, insomma, l'agenda è vero, è stata un'agenda opposta, insomma, netta, su tanti fronti, ma sull'energia sì. È netta, se mi è consentito, anche sul nucleare. Voglio fare un ragionamento per assurdo, qua tutti si rendono, adesso si identificano in Obama, sappiamo bene che di Obama ce n'è uno e noi siamo un'altra storia, no? Ma se io fossi presidente degli Stati Uniti non mi porrei adesso il problema di chiudere le centrali nucleari, no? Perché una volta che uno ce l'ha è una fonte di energia e ci fa i conti. Però Obama ha detto con nettezza che non è quella la strada che lui intende praticare, tanto è vero che ha annunciato la chiusura dell'unico deposito di scorie nucleari a lungo termine, quello di Yucca Mountain, ce n'è uno solo al mondo lì, e lui ha annunciato la chiusura di quel deposito nel Nevada, e peraltro en passant questo gli ha anche consentito di strappare il Nevada ai repubblicani come stato. Insomma, alla testa di quello che sarà il prossimo futuro, non attardiamoci. Evitando quella rincorsa, ma lei l'ha detto, insomma, all'Obama mania, insomma, adesso tutti appunto a incarnare Obama, che giustamente è il presidente degli Stati Uniti, eletto negli Stati Uniti, e lì e basta. Devo dire che soprattutto in Italia c'è questa corsa un po' francamente ridicola. Un'ascoltatrice, ce la facciamo l'ultima, Maria da Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo fare una domanda pratica. Io sono una persona pratica e dunque faccio domande pratiche. Che cosa costa in termini di soldoni una centrale nucleare e quanti pannelli fotovoltaici si potrebbero fornire alle famiglie italiane per risolvere un pochino il problema? In alternativa, risolvendo anche un po' forse il problema della bolletta, del caro bolletta. Sì. Grazie. Guardi Maria, insomma, la questione della porla così come alternativa, effettivamente, non lo so, a me colpisce sempre, nel senso che non è che o si fa una centrale nucleare o si fanno i pannelli fotovoltaici. Se uno si è deciso di fare tornare al nucleare, si tornerà al nucleare, chi lo sa. Non è una domanda così semplice quella che ha fatto, perché nei costi non ci sono solo i costi della produzione, ci sono poi i costi che comporta per esempio il nucleare, lo smaltimento, la sicurezza, gli impianti fotovoltaici costano, insomma, se ne vogliono fare tanti, soprattutto se ne vogliono fare tanti per produrre tanta energia. Senatore Possa, però deve essere corretto nel 30 secondi a rispondere a questa domanda: c'è un dato almeno per la questione della nucleare, quanto costa produrre una centrale, creare una centrale, poi ci sono i costi di mantenimento eccetera, ma crearla da zero a una centrale? Guardi, il costo dipende naturalmente da tantissime cose, dal costo del denaro prima di tutto, dal costo dello studio del sito, quindi si può dare una forcella. Ecco, faccia una stima, una forcella. Una forcella è sull'ordine dei 3 miliardi, 4 miliardi di euro per una grande centrale da 1200. Perché prima Grazia Francescato diceva 6 miliardi per ogni reattore. No, vabbè, dipende da come si valuta il costo del denaro. Ripeto, il costo del denaro è l'elemento essenziale, perché il costo del nucleare è essenzialmente un costo di capitale, cioè il costo per la costruzione della centrale. Il costo del kilowattora nucleare, del prodotto nucleare, è essenzialmente un costo che deriva dal elevato costo dell'impianto. Va bene. Volevo suggerire un... Senatore, no, la devo fermare perché ho già sforato 20 secondi, ma prometto che torneremo sull'argomento. Con questo dato mi devo fermare davvero, perché sennò sforo e succedono guai. Ringrazio senatore Possa, grazie a Francescato, onorevole Realacci, per questa puntata sul nucleare, il sindaco anche di Trino. In redazione Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi, potete ascoltare tutto sul sito radio24.it. Saluto anche in regia Giorgio Matè e ci ritroviamo domattina.